fai presto, ciò che sono resto è questo che ho voluto, il riflesso dell'immagine, lo specchio, l'immagine che ho dipinto, lo stesso di anni fa, ma c'è la diversa identità, un diverso carattere che mi porta a combattere dentro con me stesso, dentro i quattro mura di gesso in cui ho rinchiuso me stesso, mura fragili che non mi difendono, mi rinchiudono, mura semplici, mura complici. Resto sempre ciò che sono, i colori ho scelti male, mo dipinto il vero, il nero per il contorno, profondo come il lato oscuro del mio carattere, quello che nessuno sa trovare, quello che solo io so vedere, sono sempre me stesso, onesto con me stesso, con appresto, esperienza accumulata, errore, su orrore, che i miei occhi hanno visto, hai visto mai, cambiasse il mondo, e rosa poi, mi riporta ad anni fa, la foto non è cambiata, ma la persona è migliorata, i colori ho scelti male, ma è solo questione di estetica, guardami dentro, è lì che mi puoi trovare, il vero io, dentro me stesso cerco, da quando io messo in scacco me stesso, chiuso in angolo dentro me, come se per anni non sono mai stato me stesso, ho sempre cercato di apparire meglio di quello che sono, forse per sembrare qualcuno che non ero, forse per stare in alto nel cielo, forse, ma ora non trovo risposte, ora che davanti a questo specchio ho visto un'immagine dipinta, non più fotografia della realtà, non più la persona che sta sulla carta identità, non avvio me stesso, in cerca di un compromesso, in cerca del filo del discorso, ogni dietro dissi, conto solo su me stesso, ora mi riscopro debole, dato che ho bisogno di una luce che mi indica la via, ho bisogno di più fantasia, di più colori, per andare oltre il bianco e il nero, per non vedere tutto il mondo come un zero, vero o falso, per poter apprezzare un giorno ancora le mille sfumature di colore, mille cambiamenti, un milione il migliore, deve ancora arrivare, quello sì sarà un giorno da ricordare, indietro cosa lascio, niente, almeno di importante, tutte storie passate, finite, altrettante sprecate, o magari neanche cominciate, cosa faccio, cosa sono, cosa dico, un quesito, che lascio senza risposta, perché mi costa una risposta, che poi non resta, perché poi resta, ogni frase detta, ogni frase fatta, ormai non basta più una semplice risposta, ora tutto ciò non più non costa, se guardo oltre, se trovo nuove forze, se trovo un nuovo modo di supporre, di superare il forte, magari capace di aprire nuove porte, se racconto su di te che mi illumina la via, che sei il mio sostegno, che sei il mio punto fermo, una vita in movimento, in continuo cambiamento, il punto luce per entrare, contenuti in questa cornice, milioni di colori che tornano ancora e girano per la mente, aprono porte, ne sbattono altre, se forte ma si debole, se serve, si malleabile, perché oggi ogni contorno è labile, perché non esiste più prova tangibile, perché domani un traguardo irraggiungibile, a coltre oggi è impenetrabile. Capirmi se per te è più facile, fine frase, punto a capo, rileggo il discorso per tirare le somme di quanto detto fatto, la memoria di Nessim è messa nudo come in un video, interminabili situazioni, rappresentazioni confutabili di non dissimili limiti posti, in quei posti dove resti certi, nuovi specchi, nuovi sprechi, ora te la sbrighi e vedi, neanche te ci credi, siamo simili proprio in questo, non crediamo in noi stessi, questo che ci accomuna, che ci avvicina, quando credo in te, non lo sostegno, perché credi in me, ed è il sostegno che ti do.